il rischio che in realtà è già in atto è una estensione del conflitto a Gaza al Libano, e evidentemente il tentativo che sta facendo in questa fase l'esercito israeliano è quello di distruggere, di colpire gravemente le infrastrutture di Hezbollah, cioè del movimento sciita libanese, di allontanare il più possibile i combattenti partito di dietro al confine con Israele, e lo sta facendo con raid continui. Oggi sono attesi altri bombardamenti, ci sono stati raid nel sud-est del Libano. Il ministro della difesa israeliano Gallant ha parlato con gli Stati Uniti, che fino a qualche giorno fa dicevano di non essere stati informati di queste operazioni, ma in realtà è evidente che il tentativo è quello di limitare la minaccia che viene dall'Iran, perché è considerato il problema principale, oltre a quello di liberarsi della leadership di Hamas. Abbiamo visto quest'estate c'è stata l'uccisione di Ismail Haniyeh, il prossimo nella lista è Yassin Bar. Ci sono addirittura state nelle ore scorse delle notizie che sono venute da media israeliani di un'uccisione di Sinbar, però non confermate. Evidentemente il ruolo iraniano è centrale. L'anno scorso, nella stagione passata, la morte in un incidente aereo del presidente Ibrahim Raisi e poi il nuovo presidente Pezeshkian hanno aperto una nuova pagina politica in Iran, anche se bisognerà vedere quali saranno gli effetti di questa elezione. Uno di questi è probabilmente che l'Iran manterrà in questa fase delle posizioni più moderate. Infatti non c'è stata una vera risposta dopo l'uccisione in territorio iraniano di Haniyeh, e dall'altra parte anche gli Stati Uniti avranno tutto l'interesse a evitare che ci sia un'escalation e che effettivamente ci sia una risposta iraniana contro Israele. Ricordiamo che questo c'è già stato la scorsa primavera dopo l'attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco. Quindi in qualche maniera in questa fase concitata, dove la guerra sembra non potersi estendere alla regione del Medio Oriente, Israele tenta di sfruttare la debolezza degli Stati Uniti, una debolezza dovuta a tanti fattori. Uno di questi fattori è che ci saranno le elezioni, un altro fattore è che Joe Biden in questa fase è un presidente debole perché non si è ricandidato alle elezioni presidenziali. Negli Stati Uniti stessi ci sono proteste contro la guerra a Gaza, ci sono state proteste alla conferenza Dem che ha incoronato Kamala Harris come candidata democratica, e tutto questo fa sì che il negoziato per arrivare al cessato il fuoco a Gaza sia assolutamente in salita, e tutti gli elementi, tutti i passaggi che portano alla possibilità di arrivare ad una tregua permanente sono poi completamente cancellati dagli attacchi israeliani. Un altro esempio in questo senso è il fatto che c'è stato questo raid dell'esercito israeliano alla sede dell'ufficio di Al Jazeera a Ramallah, in Cisgiordania. Addirittura è stata ordinata la chiusura del canale satellitare del per 5 giorni. Ricordiamo che Al Jazeera non è visibile in Israele proprio per la sua copertura degli attacchi a Gaza, quindi ancora di più un bavaglio che viene messo alla libera informazione. Tutto questo viene dopo giorni pesissimi. Ricordiamo che venerdì scorso c'è stato su Beirut che ha portato alla morte di 45 persone, inclusi 3 bambini. Sono stati colpiti da parte dell'esercito israeliano i quartieri sciiti e sono stati uccisi alcuni esponenti importanti di Hezbollah, tra cui Ibrahim Kil, che è un comandante serio delle forze della Doana, Ahmed Warbi, nello stesso gruppo, e ancora preceduto da un altro attacco molto grave che è fortemente criticato anche le violazioni di diritti umani che ha comportato, cioè gli attacchi ai cercapersone, cercare walkie-talkie sia in Siria che in Libano, in dotazione degli esponenti del movimento sciita libanese, che addirittura ha portato a 4.000 feriti, di questi 152 restano in gravi condizioni, 20 morti. Lo stesso Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah, ha detto che sono state portate tutte le linee rosse, però evidentemente qui ci troviamo di fronte ad un conflitto che va avanti dal 7 ottobre ad oggi. Sono state oltre 600 le persone che sono state uccise dai raid israeliani in Libano, tra cui 130 civili, e ovviamente questo poi ha comportato anche la morte di 23 soldati israeliani e di 26 civili, mentre sono, secondo le Nazioni Unite, 90.000 i libanesi che hanno dovuto lasciare le loro case. A causa dei raid israeliani, 60.000 gli israeliani che hanno dovuto lasciare le loro case, quindi evidentemente c'è una tensione fortissima che coinvolge principalmente il confine tra Israele e Libano. La strategia adottata in Libano dall'esercito israeliano sembra quella dell'escalation per la de-escalation, ma è una teoria che può funzionare o il rischio è di un allargamento ulteriore su scala regionale del conflitto? Sì, Israele mantiene una guerra permanente, una guerra senza limiti, soprattutto sfrutta questo fragilità degli Stati Uniti per fare tutto quello che vuole nella regione, e evidentemente questo non può far altro che portare a più guerre. Pensiamo soltanto ai 520 di Hezbollah che hanno perso un occhio alla vista delle esplosioni dei giorni scorsi di certe persone. Ovviamente questi sono tutti attivisti che poi si mobiliteranno prima o poi. Qui ci sono poi tante implicazioni, perché non si sa bene questa tecnologia da dove viene, se da Taiwan, della Golda Apollo, o se fosse stata prodotta addirittura in Europa e poi data in dotazione agli esponenti di Hezbollah. Evidentemente questi attacchi cibernetici manifestano ancora di più il tentativo israeliano di sfruttare questo contesto, di entrare in territorio libanese il più possibile, di mettere in crisi il movimento sciita libanese Hezbollah, che poi a sua volta ha radici in Iran, radici soprattutto ideologiche, perché si ispirano alla rivoluzione iraniana, e tutto questo prima che si arrivi al cessate il fuoco che gli Stati Uniti vorrebbero imporre, tutto come ultima successo, diciamo, della presidenza Biden. Anche questo poi ha ulteriori implicazioni, perché gli attacchi su larga scala che stanno coinvolgendo con molto Israele non vengono solo dal Libano. Pensiamo ai raggi che, anche un'azione senza precedenti di quest'estate, ma anche di pochi giorni fa, che sono partiti dallo Yemen e che hanno colpito Tel Aviv, e ancora una volta i cargo che sono stati bloccati nel Mar Rosso, quindi evidentemente un coinvolgimento degli Houthi, che anche loro hanno un background sciita in Yemen, e poi ovviamente sempre nel contesto di guerra che coinvolge la Siria e l'Iraq, perché in Siria e in Iraq vengono continuamente colpiti gli interessi statunitensi nei due paesi. La Siria è stata sotto attacco negli anni scorsi, un attacco che aveva ucciso 16 persone e 43 feriti, che veniva proprio da Israele. Quindi costantemente si riproduce nei paesi vicini, nei confinanti con Israele, la guerra per procura con l'Iran, che ha come obiettivo quello di coprire il più possibile le autorità iraniane. Se certamente l'uccisione di Ismail Haniyeh il 31 luglio scorso a Teheran è stato un episodio eclatante che ha dimostrato quanto fosse fallace la sicurezza iraniana, il controllo, la possibilità dell'intelligence israeliana di penetrare in territorio iraniano, e nonostante questo l'Iran non ha agito in maniera evidente come ha fatto nella scorsa primavera contro Israele. Quindi bisognerà vedere fino a che punto l'Iran vorrà difendere la causa palestinese. Ieri l'Ayatollah di Khamenei ha detto che ci vuole un'unità di tutti i paesi che hanno la voglia, la capacità di difendere la causa palestinese per sconfiggere Israele, però spesso queste sono più parole che fatti, anche perché ricordiamo che c'è una differenza sostanziale tra la Repubblica Islamica, i sciiti e Hamas. Nonostante ciò, si è creato dopo il 7 ottobre un fronte della resistenza che ha unito questi gruppi, però fino a un certo punto stiamo vedendo in questa fase. Vedremo che questa fase, questo momento di coinvolgimento del Libano nel conflitto porterà a un'escalation tale che coinvolgerà anche gli altri attori, e l'Iran già si sta preparando. Questo si è preparato, per esempio, andando a parlare con Putin, rafforzando l'asse con Mosca, rispondendo anche al fatto che le misure, le sanzioni contro l'Iran sono state estese da parte degli Stati Uniti, quindi evidentemente le autorità iraniane si trovano in grandi difficoltà. Questa fase, da una parte c'è un'anima riformista che vorrebbe placare gli animi e evitare lo scontro, dall'altra però ci sono i Pakistan che vorrebbero invece andare allo scontro diretto, e quindi evidentemente questo porterebbe ad un conflitto su larga scala che non si è ancora mai verificato in mente.